Perfetto Giorno di Alessio Maurizi. Perquisizioni della Guardia di Finanza al Trivulzio di Milano. In altre RSA la procura indaga sulle residenze per anziani. Via libera dell'Europa al decreto imprese, da domani in arrivo i 600 euro sui conti correnti degli autonomi. E da oggi aperti librerie, cartolerie, negozi per neonati, ma non in tutte le regioni. In Veneto cade il limite dei 200 metri per l'attività motoria. Come sarà la stagione estiva? Potremo andare al mare, dice il governo, ma con protezioni e distanze maggiori tra ombrelloni e sdraio, gli operatori chiedono di partire subito. Buongiorno da Alessio Maurizio, dalla redazione, ben ritrovati in diretta con il punto delle notizie a metà giornata su Radio 24. In primo piano l'emergenza coronavirus, naturalmente con le notizie di questa mattina che riguardano le inchieste della Procura di Milano sulle residenze per anziani. La Guardia di Finanza ha effettuato e sta ancora effettuando diverse perquisizioni nella sede del Più Albergo Trivulzio, ma anche in altre RSA milanesi. Sentiamo. Stabilire se sono state eseguite le procedure, se erano adeguate e soprattutto se esiste un nesso tra la morte degli anziani e l'epidemia di coronavirus. Con questo mandato i NAS e la Guardia di Finanza sono entrati al Pio Albergo Trivulzio, ma pure in altre case di riposo tra Cesano Boscone e Settimo Milanese. Sequestrate cartelle cliniche, atti protocollati e PC da analizzare all'interno di indagini che si preannunciano complesse, visto che a molte vittime non è stato mai fatto un tampone. 150 fino ad ora quelle del Pio Albergo Trivulzio, indagato come ente insieme al suo direttore generale, che davanti agli ispettori del Ministero si è difeso ripetendo di aver seguito le direttive. E proprio una di queste, l'ordinanza della Lombardia che invitava le residenze ad accogliere pazienti dimessi dagli ospedali, apre ora un ulteriore filone di indagine per i PM che vogliono verificare se davvero, come scritto su più denunce, ai dipendenti delle RSA veniva impedito di indossare le mascherine. Una decina gli indagati nei 12 filoni milanesi, tra Dognocchi, la Sacra Famiglia di Cesano Boscone, ma pure Mediglia e altre RSA tra Affoli, Corvetto e Lambrate, ma perquisizioni dei NAS sono in atto anche nelle strutture per anziani della Bergamasca. Raffaella Calandra, Radio 24, il Sole 24 Ore. E continua in Italia fortunatamente il calo dei malati e dei ricoveri, soprattutto in terapia intensiva per il coronavirus. Resta in controtendenza la Lombardia, con dati che non manifestano la stessa inclinazione alla diminuzione. Intanto nel giorno di Pasquetta, ieri, c'è stato un record di controlli e anche di sanzioni. 16.000 persone, sentiamo. Continua a calare, seppur lentamente, il numero dei contagi in Italia. I nuovi positivi erano ieri 1.363 contro i 1.984 del giorno precedente. In lieve calo anche le terapie intensive per il decimo giorno consecutivo, mentre i malati hanno superato quota 20.000 unità e nelle ultime ore si è allungata la lista dei medici che hanno perso la vita altri 3 e il totale dall'inizio dell'epidemia è di 112. L'attenzione però resta ancora alta sulla Lombardia, dove i numeri sono stabili ma si contano ancora molti decessi. Crescono i contagi in particolare a Brescia, Cremona e Milano, mentre in Piemonte, dice il governatore Alberto Cirio, il contagio sta andando via più lentamente rispetto alle altre regioni. E intanto oggi si fa anche il bilancio dei controlli effettuati durante i giorni di Pasqua, record di denunciati, fa sapere il Viminale, per il mancato rispetto delle misure di contenimento. Sono state 16.545 le persone sanzionate per aver violato i divieti di spostamento su oltre 250.000 controlli. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E come avete dunque sentito dai titoli, ormai sappiamo, oggi è una giornata nella quale c'è una riapertura parziale, riguarda le librerie, le cartolerie, i negozi per i neonati, ma non in tutte le regioni, perché ci sono andamenti appunto differenziati da regione a regione. Inizia nel frattempo anche il lavoro del governo per la cosiddetta fase 2. Regione per regione la riapertura in vista della fase 2 a macchia di leopardo sono molto importanti, infatti le eccezioni iniziamo da queste. In Lombardia e Piemonte non sarà consentita la riapertura di librerie e cartolerie. In Lombardia è stato invece consentita la riapertura dei negozi per la vendita di articoli per neonati e bambini, confermata la chiusura degli alberghi, degli studi professionali, dei mercati all'aperto e di tutte le attività non essenziali. In Emilia-Romagna, nelle province Piacenza e Rimini, sospese le attività di commercio al dettaglio di carta, cartone e articoli di cartoleria, di libri, di vestiti per bambini e neonati. Nel restante territorio invece queste riapriranno? Il governo ha deciso di ampliare anche la lista delle attività produttive consentite, dal commercio, del packaging fino alla lavorazione del legno, ma sono difficili i primi passi. Ecco la testimonianza di un'azienda del settore lavorazione del legname, XLEM Dolomiti, e dell'imprenditore Albino Angeli. La ripartenza oggi è stata un po' complicata, se non più perché noi siamo comunque una filiera legata all'edilizia. Quando non partono i cantieri realmente non possiamo partire. Sempre con regole stringenti di distanziamento e disinfezione, mascherine e presidi protettivi per tutti. Anna Marino, Radio 24 e Sole 24 Ore. E come dicevamo, rispetto al calo di contagi in Italia, la situazione è interlocutoria. In Lombardia, invece, a Milano, la curva dei contagi non si abbassa. Un trend inaspettato e che potrebbe spostare anche in avanti l'ipotesi di una ripartenza. Per Roberto Cauda, docente di malattie infettive alla Cattolica di Milano, al microfono di Rosanna Magnano, questa situazione potrebbe però anche essere spiegata dal ritardo con cui vengono conteggiati i casi positivi. Sentiamo. L'effetto che oggi noi vediamo, quello che è avvenuto alcune settimane fa. Però vorrei porre l'attenzione su alcuni aspetti. La pressione sui pronti soccorsi sembra essere diminuita, così come il numero dei pazienti ricoverati sia nei reparti che in rianimazione. Ci sono molte speranze riposte nei test sierologici, nella patente di immunità, però ci sono anche notizie su casi di reinfezione. Bisogna essere molto attenti, io credo, nelle definizioni tra reinfezioni e invece recidive. Si potrebbe ipotizzare che ci siano stati dei soggetti nei quali il virus abbia continuato a replicarsi a livello polmonare e questo in casi singoli, io direi eccezionali, a portare ad una ripresa della malattia. E siamo alla politica con il nuovo botta e risposta tra Matteo Salvini e Giuseppe Conte. Il contrasto tra l'altro tra la maggioranza e l'opposizione arriva anche in commissione di vigilanza RAI. Approda in commissione di vigilanza RAI nel pomeriggio lo scontro fra Conte e le opposizioni. Il centrodestra annuncia battaglia contro il premier che nella conferenza stampa trasmessa in diretta TV venerdì dalle principali emittenti nazionali aveva attaccato Salvini e Meloni accusandoli di mistificare la realtà sul MES, indebolendo così la posizione dell'Italia in Europa. Palazzo Chigi precisa di non aver mai chiesto di trasmettere un messaggio a reti unificate e aggiunge che il premier ha smentito fake news che rischiavano di danneggiare il paese. Sul meccanismo europeo di stabilità, Lega e Fratelli d'Italia restano però all'attacco. Il MES concede prestiti a tasso di usura come quando vai dallo strozzino, dice il leader del Carroccio Salvini. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E sul fronte delle conseguenze economiche del coronavirus, da domani inizia il pagamento dei 600 euro per i lavoratori autonomi, mentre oggi è arrivato il via libera dell'Unione Europea al decreto legge imprese con le misure a sostegno dell'economia e anche le garanzie dello Stato per i prestiti alle aziende. Il via libera della Commissione europea era pressoché scontato nel clima attuale di deroga alle normative europee, in questo caso le regole sugli aiuti di Stato. L'ok della Commissione arrivato nella notte autorizza l'Italia a fornire la garanzia dello Stato dal 70 al 100% a seconda dei casi sui prestiti alle imprese colpite dalla crisi da Covid-19 in base al decreto liquidità dell'8 aprile. L'ABI ha già diffuso una circolare alle banche per rendere subito operativa la misura. E sul sito del Mise è online il modulo per autonomi e piccole imprese per chiedere i prestiti fino a 25.000 euro garantiti al 100% dal fondo PMI. L'ABI assicura che una volta ricevuta la domanda le banche non ci metteranno più di 2-3 giorni a erogare le somme. Il governo assicura intanto un'accelerazione anche sul fronte dei bonus del Cura Italia. L'INPS comincerà domani ad accreditare i bonus autonomi da 600 euro e finirà entro venerdì. Entro la settimana prevista anche l'erogazione di tutti gli altri bonus previsti dal Cura Italia ai 9 milioni di lavoratori che ne hanno fatto richiesta. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Oltre al coronavirus, sugli Stati Uniti si sono abbattuti anche una serie di tornado che hanno provocato almeno 32 morti. Tra gli stati più colpiti il Mississippi, l'Alabama, il Texas, la Georgia, la Louisiana e il Kentucky, distrutte centinaia di abitazioni. Ma adesso torniamo alla diffusione a livello globale dell'epidemia di Covid. Sentiamo. Sono sempre gli Stati Uniti il primo paese per numero di contagi e con oltre 23.000 decessi. Ma per il presidente Trump, il quale ha ribadito che non licenzierà il virologo Anthony Fauci dalla sua task force per combattere il coronavirus, le misure in atto stanno funzionando. Trump ha comunque sottolineato che spetta a lui il compito di riaprire gradualmente la nazione e non ai governatori e che il piano per farlo sarà annunciato nei prossimi giorni. Il secondo paese per contagi dopo gli USA resta ancora la Spagna, con quasi 170.000 casi e oltre 17.000 vittime, anche se la pandemia rallenta. Perciò il premier Sanchez ha già avviato un allentamento delle restrizioni con la riapertura di alcune attività non essenziali dell'edilizia e dell'industria. In Francia, ieri sera record assoluto di ascolti, con oltre 36 milioni di telespettatori, per il messaggio del presidente Macron, che ha annunciato una proroga del lockdown fino all'11 maggio prossimo. In Gran Bretagna, dove le vittime sono in leggero calo e sono per ora oltre 11.000, buone notizie per il premier Boris Johnson, risultato negativo all'ultimo tampone dopo le dimissioni dall'ospedale. In Cina, infine, nuova sfida per prevenire una seconda ondata di Covid-19 dopo un centinaio di nuovi casi dovuti all'aumento di viaggiatori contagiati che arrivano dall'estero. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E come sentivamo, in alcuni paesi si comincia a parlare di ripartenze, di riaperture, in particolare per quanto riguarda la scuola. Riaprono domani in Danimarca, in Norvegia lunedì prossimo. In Francia avete sentito l'annuncio del Presidente della Repubblica Emmanuel Macron, che ha detto dopo l'11 maggio le scuole dovrebbero riaprire. Anche la Germania si avvia a riportare presto gli studenti sui banchi a scaglioni, mentre in Italia non sono ancora state decise quali sono le date. Il ritorno a scuola per gli studenti italiani sembra sempre più lontano. Il direttore del Dipartimento Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità e membro del Comitato Tecnico Scientifico Gianni Rezza, ieri ha frenato sulla riapertura delle scuole a settembre, auspicato il giorno prima dal Presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli. Le ipotesi che si fanno in queste ore sono di una riapertura a settembre, alternando però le lezioni la mattina e il pomeriggio, per consentire di riportare in classe 8 milioni e mezzo di studenti. Ma per i sindacati servirebbero 3 miliardi e mezzo di euro. Il confronto tra il Ministero dell'Istruzione e i sindacati della scuola però è partito già in salita. CGIL, CISL, UIL, SNALS e Gilda hanno scritto oggi di non essere disponibili a partecipare all'incontro fissato per domani alle 15 con il Ministero, in cui era prevista un'informativa su reclutamento e concorsi. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. 13:13, facciamo un break, effetto giorno torna tra poco con tutte le altre notizie. Ripartiremo dal caso Milano, dove i dati non mollano, cercheremo di capire perché sta accadendo questo. Poi parleremo di fase 2, perché c'è già un modello, quello della regione Piemonte, messo a punto con il Politecnico di Torino, e vedremo che cosa è stato pensato per le aziende. E poi, a proposito di ripartenza, come sarà la stagione estiva, la stagione balneare? Gira immagini, gira un rendering, un'immagine di uno stabilimento balneare dove gli ombrelloni sono separati tra loro da barriere di plexiglass. Sarà questa la stagione estiva che ci aspetta? Sembra di no, sembra che questa sia solo una esagerazione, ma insomma cercheremo di allungare lo sguardo anche sull'estate che ormai incombe. Ci risentiamo tra poco dopo il break. 349-238-6666. Promo 24. La casa è un bene essenziale per ogni essere umano, per ogni cittadino. Il mercato dell'intermediazione immobiliare in Italia dà lavoro a oltre 46.000 agenti, a cui si aggiungono decine di migliaia di persone impegnate nell'indotto, con un impatto economico e sociale su centinaia di migliaia di famiglie. A beneficio dell'intero comparto, Remax Italia, gruppo immobiliare in franchising leader del settore, chiede al governo che le transazioni immobiliari, compresi servizi ausiliari quali mutui, perizie, traslochi, siano inclusi nelle prime attività che potranno tornare operative dalla fase 2, nel rigoroso rispetto delle prescrizioni stabilite contro la diffusione di Covid-19. La casa degli italiani è da sempre nel cuore di Remax. Effetto giorno. Queste le notizie di oggi. Record di denunciati a Pasquetta per il mancato rispetto delle misure di contenimento da coronavirus. Sono stati 16.545, informa il Viminale, le persone sanzionate. Case di riposo. La procura indaga oggi perquisizioni della Guardia di Finanza al Trivulzio di Milano e in altre RSA milanesi. Via libera dell'Europa al decreto imprese. Da domani in arrivo i 600 euro sui conti correnti degli autonomi. E da oggi invece aperti librerie, cartolerie e negozi per neonati, ma non in tutte le regioni, in modo uguale. In Veneto cade anche il limite dei 200 metri per l'attività motoria. È con noi Roberta Villa, giornalista, laureata in medicina, divulgatrice, fa anche parte della task force sulla gestione delle informazioni in tempi di coronavirus. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno a voi. Grazie per essere con noi. Allora, per affrontare il nodo di Milano, la questione di Milano in particolare, perché si è parlato tanto della Lombardia, della situazione in Lombardia, che con quasi 11.000 decessi è a livello della Gran Bretagna, tanto per intendersi, poco sotto il numero di morti in Francia. Abbiamo sentito dalla cronaca, si sta indagando sulla questione delle RSA. Ci sarà tempo anche per accertare anche delle eventuali responsabilità, però c'è anche un caso Milano, perché i dati, Roberta Villa, indicano che non c'è un calo come ci si potrebbe aspettare del numero di positivi. Potrebbe esserci una questione di ritardo anche nei conteggi, però che cosa indicano questi dati e quali potrebbero essere le spiegazioni? Che lei ha cercato di provare a capire che cosa potrebbe essere successo in una città come Milano, una metropoli dove si sommano problemi già emersi altrove, non solo in Lombardia, ma in Lombardia in particolare, ma forse anche aspetti legati a una grande città come questa. Io penso, naturalmente, che in questo momento possiamo fare soltanto delle ipotesi, soprattutto perché dalla regione non ci viene dato un dato essenziale, che io spero loro abbiano e stiano valutando, cioè accanto al, diciamo, tampone positivo, spero che qualcuno stia indagando dove e come queste persone più probabilmente possono essersi contagiate. Possiamo soltanto fare delle ipotesi, e un'ipotesi deriva dal fatto che, per esempio, a Milano c'è un'alta percentuale di persone che vivono sole, o viceversa, chi vive in famiglia spesso vive in spazi più ristretti che altrove. Sì. E quindi una possibilità, visto che comunque quando una persona è positiva al tampone, anche in ospedale, se non è grave, spesso è rimandata a casa, o viceversa, chi ha dei sintomi che non sono molto gravi è lasciato a casa, a mio parere, se è solo, rischia di non riuscire a curarsi in maniera opportuna prima di peggiorare. E chi è in famiglia inevitabilmente contagia gli altri familiari, e soprattutto gli altri familiari devono comunque provvedere alla necessità, andare a fare la spesa, certo, uscire. Cioè l'ideale quindi sarebbe essere soli, isolati, se si è positivi, ma avere qualcuno di molto vicino che ti dà una mano quotidianamente. Certo. Altrimenti, infatti, secondo me fuori nei paesi è più facile che si crei questa rete. Invece nelle grandi città, anche in un condominio, a volte succede, chi può, infatti anche la campagna del ministero aveva detto chiedi al tuo vicino se ha bisogno, ma purtroppo nella realtà di Milano spesso questo non succede, e quindi secondo me questo è un grosso problema, la mancanza di una rete sociale di assistenza, al di là dell'assistenza medica, che comunque dovrebbe essere stata fatta e organizzata sul territorio, fornendo i medici di famiglia di protezioni che non hanno ricevuto, potenziando queste USCA, queste unità di assistenza domiciliare che in altre regioni sono più numerose, più efficienti, e poi anche organizzare delle squadre di assistenza, diciamo di volontariato o come si vuole, ma che comunque possano provvedere ad altri bisogni, certo, in maniera però con dei protocolli di sicurezza stabiliti dall'alto, perché altrimenti ci sono delle iniziative poi spontanee, sì, che possono essere pericolose, che possono aiutare magari un condominio, un quartiere, una zona, ma non essere, come dire, capillari, essere anche e uniformate, magari non, e magari, esatto, e magari non avvalersi di misure di sicurezza adeguate anche, e questo mi sembra anche un punto fondamentale nel momento in cui stiamo cercando di vedere la luce di fronte a noi, di capire come sarà la fase 2. Mi sembra che una rete di sostegno, logistica, per consegnare quantomeno la spesa a casa o per assistere anche dal punto di vista dei medicinali, le persone anziane sole che sono nelle loro case, che sono anche tra l'altro quelle più vulnerabili. Mi sembra che questa sia una riflessione fondamentale, partendo proprio dal dato di cronaca che ci dice che questo potrebbe essere uno dei motivi che spiegano i casi su Milano. C'è assolutamente anche... Scusa un attimo, un punto su questo, cioè i grandi anziani soli o particolarmente fragili, sì, spesso sono compresi dentro elenchi del comune che già provvede, per esempio durante le ondate di caldo. A me preoccupano di più le persone giovani o adulte senza problemi particolari né economici, sì, né di salute, ma che nel momento in cui si ammalano anche con delle forme magari non gravi, inevitabilmente non è che chiamano l'assistenza del comune per andare a fare la spesa, vanno ugualmente a fare la spesa anche se hanno un po' di tosse, un pochino di febbre. Però sono contagiosi in quel momento. Certo. E questo è un problema. E credo che bisognerà porre un rimedio a questo, soprattutto credo nelle grandi città, dove la riflessione di Roberta Villa mi sembra di diciamo ai limiti della sociologia, esatto, dei luoghi comuni. Però certamente nelle città si è più isolati. C'è però anche la questione sanitaria, no? Perché si è detto molto che bisognava rinforzare, lo ha detto anche il ministro della Salute Speranza qualche giorno fa, la medicina sul territorio, a fronte di uno sforzo iniziale molto concentrato sugli ospedali. Ma come si fa, dove lo si sta facendo, a curare le persone nelle loro case? Perché sappiamo che queste unità che dovrebbero uscire sono molto limitate dal fatto che il personale non è tanto, i dispositivi di protezione spesso non ci sono, i medici di famiglia sono sovraccarichi di richieste. In che modo, se ne esce, in che modo si rinforza la medicina del territorio, secondo lei? Ma allora, prima di tutto sì, potenziando queste squadre e garantendo anche a queste squadre la possibilità di un certo tipo di interventi, nel senso che abbiano dei protocolli terapeutici, farmaci da somministrare, indicazioni precise, che possano essere lasciati per esempio delle indicazioni alle persone anche su come controllarsi, per esempio attraverso un saturimetro o anche attraverso certe app che dal cellulare permettono di verificare la presenza di ossigeno nel sangue e dare delle indicazioni precise su quale è la soglia allarmante da cui diciamo chiedere aiuto. Ma però ci potrebbe essere anche una fascia intermedia, nel senso che si potrebbero anche creare delle strutture, penso per esempio agli ospedali che sono stati chiusi, sì, in cui anche medici ancora, ci sono per esempio molti medici a casa positivi che stanno benissimo, che magari tardano a negativizzarsi, e questi potrebbero essere e vorrebbero tornare in campo e dare il loro contributo, ma devono stare chiusi in casa. Potrebbero essere d'aiuto in questi casi e anche in strutture eventualmente intermedie dove si possano assistere delle persone con forme lievi da poi eventualmente spostare nel caso si aggravassero. Cioè per esempio facciamo un esempio, che si aggravino. Facciamo un esempio parlando qualche giorno fa con il professor Vitale del Sant'Orso di Bologna, lui diceva che hanno messo in piedi degli ambulatori, per esempio, in dei checkpoint, anche in delle pezzi di ospedale, chiamavano le persone, portavano le persone che avevano sintomi da casa in questi luoghi, li facevano degli esami, li davano se possibile anche una terapia e poi il giorno stesso li rimandavano a casa, però dopo essere entrati in contatto con dei medici. Potrebbe essere questa la fascia intermedia che diventerebbe determinante in questa seconda fase, forse. Questa è stata la proposta anche di un gruppo di medici di famiglia guidati da Andrea Mangiagalli, che sta cercando di smuovere un pochino, di dare degli apporti pratici da chi conosce la realtà sul territorio. Abbiamo i distretti in Lombardia dove sarebbe facile creare dei percorsi sicuri dove le persone arrivano, gli viene fatto il tampone, gli viene fatta eventualmente una lastra se necessario, gli viene somministrata una terapia, e poi potenziare una rete di la rete telefonica che già so coinvolge molte persone, ma allargarla, la rete di chi risponde ai call center e richiama queste persone, perché in realtà questo non solo in Lombardia, anche altrove, so che le persone in teoria dovrebbero essere richiamate, le persone positive a casa, ma di fatto spesso questo non avviene perché probabilmente sono troppe. Invece per chiamare due volte al giorno e chiedere ha misurato la febbre, come sta, e questo lo potrebbe fare anche una persona non medico, dagli studenti di medicina a forse anche dei volontari, che poi davanti a un segnale d'allarme possano mettere invece in contatto il paziente con persone più preparate e competenti. Senta, Roberta Villa, un'ultima cosa le voglio chiedere, se ci aiuta a capire anche con un'opinione sua personale, la scelta che sembra arrivare per esempio dalla Francia di riaprire le scuole già l'11 maggio, noi non abbiamo una data. Come interpretare questa cosa? Come quindi un modo di leggere, di avere una visione del presente molto diversa dalla nostra, per cui si mette sul piatto la bilancia il fatto di rischiare la salute degli anziani a patto di invece di non perdere una generazione di giovani che stanno perdendo mesi di scuola. Macron ha detto nelle periferie si sta male, si sta peggio che nelle città e nelle campagne, eccetera. Oppure c'è un risvolto epidemiologico di una lettura diversa di come contenere la malattia in Francia, che in Italia magari ci è sfuggita? Allora, bisogna in questa situazione avere il coraggio di dire una cosa, che non ci sono certezze e la scienza su questo non ha delle certezze da dare. Quindi abbiamo delle ipotesi, abbiamo vari scenari in cui poi ci sono delle scelte politiche che non necessariamente sono uniformi per tutti i paesi, per tutti i contesti, perché abbiamo realtà molto diverse anche dal punto di vista anagrafico, della convivenza tra giovani e anziani, della densità della popolazione. Perciò quello che va bene in Francia non è detto che vada bene in Italia. Sicuramente questo è un problema. Sicuramente la chiusura delle scuole è un problema, anche perché nel momento in cui si pensa di riaprire le attività produttive ma senza riaprire le scuole, ovviamente non si tiene conto che le famiglie, certo, non sanno come gestire i bambini. Già adesso molte persone, si dice fai smart working, ma se uno ha due o tre bambini piccoli in casa non è facile nemmeno fare smart working. Quindi bisognerà affrontare questo problema. Sinceramente non so, a me sembra, per noi nella nostra realtà, io parlo da Milano, veramente dal centro, dall'epicentro della crisi in questo momento, l'idea di riaprire prima della fine dell'anno scolastico mi sembra imprudente, per non dire assurda. Ecco, mi piacerebbe che fossero messe in atto tutte le misure di cui parlavamo prima, anche quindi quello che raccomanda anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità oggi, certo, nelle sue indicazioni, quindi di testare, di seguire, di isolare le persone positive, in modo da avere un po' più sotto controllo la situazione e consentire a settembre di riprendere con un anno scolastico quasi normale, perché anche queste ipotesi di alternare mattina, pomeriggio, giorni, ok, rendono comunque impossibile alle famiglie di tornare al lavoro, senza contare disagi per i ragazzi, che non sono pochi, perché poi dovremo contare non solo l'impatto sulla formazione, ma anche e soprattutto l'impatto in termini di disturbi mentali, di disagi ai vari livelli che comunque molti ragazzi stanno sviluppando in questa solitudine così prolungata. Va bene, grazie mille Roberta Villa, grazie per essere stata con noi. E dunque, avete sentito, c'è anche il tema della scuola, che ci divide in questo caso da alcuni paesi europei come la Francia o altri paesi nord europei. La stessa Germania sta parlando di una data di riapertura delle scuole, cosa che al momento per noi appare davvero lontana. Adesso invece una finestra anche dal punto di vista di come tutti noi stiamo vivendo la cronaca di questa emergenza di coronavirus attraverso la consueta conferenza stampa delle 18 della Protezione Civile. Gli italiani la attendono impazienti, ci siamo abituati ad ascoltare e ad elaborare chissà in che modo i numeri freddi, che però sono numeri che parlano di vittime. L'analisi di Daniele Biacchessi. L'Italia attende con ansia il punto della Protezione Civile delle 18, compie questo atto da settimane con la speranza di apprendere notizie migliori, con l'illusione di intercettare una timida e soffocata lucina in fondo al tunnel. Ma giungono soltanto numeri, grafici, previsioni, tendenze, numeri e ancora numeri. 20.000 morti almeno, detta così sarebbe una ecatombe, la più grande strage di cittadini italiani in tempo di pace. Non una parola, non un pensiero alto, non una riflessione, se non quelle di Papa Francesco e del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Una strage spaventosa, impressionante, che pare non commuovere e indignare nessuno, soprattutto la politica, che prosegue il suo teatrino di sterili e inutili polemiche. Eppure ci sarebbero cose da raccontare. Gli occhi delle persone, gli sguardi, le mani, i solchi dei volti dei vecchi, le storie dei medici e quelle degli infermieri. neri colpiti dal virus mentre tentano di salvare vite umane. Soprattutto il silenzio della solitudine della morte. Quello che era triste è che nella orribile contabilità dei defunti nessuno tenga conto delle loro storie, di ciò che hanno vissuto, hanno visto nel corso del tempo, delle loro speranze. Perché la morte di una persona senza la sua memoria porta dritti all'oblio. Ci vorranno molti anni per ricostruire tutto quello che abbiamo perduto in questi giorni. 13:30, facciamo una pausa, torniamo tra poco con le altre notizie, cercheremo di vedere come sarà la fase 2. La Regione Piemonte ha messo a punto un protocollo assieme al Politecnico di Torino e quindi cercheremo di ripartire da qui tra poco. 349-238-6666, ci trovate anche sulla pagina Facebook di Effetto Giorno. Effetto Giorno. Queste le notizie di oggi. Perquisizioni della Guardia di Finanza al Trivulzio di Milano e in altre RSA. Scusate, la Procura indaga sulle residenze per anziani. Record di denunciati a Pasquetta per il mancato rispetto delle misure di contenimento da coronavirus, sono state oltre 16.000 secondo il Viminale. Via libera dell'Europa al decreto imprese, a domani in arrivo i 600 euro sui conti correnti degli autonomi. Da oggi invece aperti librerie, cartolerie e negozi per neonati, ma non in tutte le regioni. Come sarà la stagione estiva? Potremo andare al mare, dice il governo, ma con protezioni e distanze maggiori tra ombrelloni e sdraio. Gli operatori però chiedono di partire da subito. Ben ritrovati da Alessio Maurizi, cari ascoltatori, in diretta con Effetto Giorno. I vostri messaggi al 349-238-6666. Molti sulla questione dei medici di famiglia, di cui abbiamo parlato con Roberta Villa, che dovrebbero essere un po' la chiave per affrontare questa fase intermedia del contenimento del coronavirus. Molti messaggi dicono: i medici di famiglia, se rispondono, lo fanno solo in orario di ambulatorio, andrebbero incrementati gli orari. Oppure ancora, facile a dirsi, ma come si fa a fare i servizi a domicilio se i medici di famiglia, dice questo ascoltatore qua, non ci sono, il governo non ha fornito nemmeno le mascherine, eccetera eccetera. Solo per leggerne due di messaggi, però non è tanto difficile. Abbiamo sentito, lo diceva anche Roberta Villa, la modalità che è stata usata, è stata proposta anche alla task force, è stata usata in Emilia Romagna ma anche a Piacenza. Anziché mandare un medico a casa di 5 pazienti, che è quello che riesce a fare in una giornata, perché deve bardarsi, coprirsi, andare, fare la visita eccetera eccetera, portarsi dietro le apparecchiature, prendi 20 pazienti, li porti in un ambulatorio Covid, con lo stesso medico fa gli esami a tutti, dà una iniziale terapia se possibile a tutti e poi li rimandi tutti a casa. Questo potrebbe essere un modello organizzativo, non ci vuole moltissimo, però insomma, adesso così stiamo ragionando anche un po' a spanne, ma credo che sia la direzione nella quale ci stiamo muovendo. È il momento però di fare il punto sugli aspetti economici e le conseguenze del coronavirus con il vice direttore del Sole. Il punto di Alberto Orioli. Oggi entra nel vivo l'attività della task force per la fase 2, quella presieduta da Vittorio Colao, uno dei migliori manager italiani di caratura internazionale e di reputazione globale. Deve riunire i 16 cervelli, spesso fuggiti e apprezzati nel mondo dove hanno fatto strada, e ora riportano in patria quei saperi. Non sarà un impegno facile trovare una sintesi tra tante star, soprattutto perché quella sintesi dovrà poi trovare l'ulteriore avallo del Premier, il quale si è affiancato anche dal mitico Comitato Tecnico Scientifico, decisore di ultima istanza del ritmo della nostra quarantena quotidiana. Lo scudo verbale finora è stato «lo dice la scienza». La politica sembra aver fatto un passo indietro, salvo rafforzare l'immagine di leadership salda a Palazzo Chigi, corroborata dal culto della personalità soprattutto via social, in una specie di bolla che ha reso il rumore di fondo la voce dei partiti e delle opposizioni. E questa unità nazionale da tempo di guerra ha reso il Parlamento gregario e distante. Le due task force si dovranno confrontare e magari scontrarsi tra loro e dovranno vedersi anche con le regioni, che spesso agiscono in modo contrario a ciò che viene deciso a Roma. La nuova diarchia premier tecnici rischia però di creare un abbaglio e sarebbe triste pensare che il virus abbia alla fine infettato la nostra stessa democrazia. E va bene, problemi di governance di questa fase ce ne sono naturalmente, di comitato in comitato. Vi vogliamo parlare del un comitato coordinato al Politecnico di Torino che sta aiutando invece la regione Piemonte a capire come muoversi. Però guardate che non è di per sé negativo il fatto che ci siano più comitati che stanno ragionando, perché intanto ogni regione ha delle esigenze effettivamente diverse proprio legate al territorio, e poi più idee abbiamo meglio è. Naturalmente poi arriverà il momento doveroso della sintesi. E con noi Guido Saracco, dopo questa premessa, rettore del Politecnico di Torino, buongiorno. Buongiorno. Benvenuto, grazie. Allora, che cosa avete immaginato per questa fase 2, diciamo questo comitato di esperti che, se ho capito bene, si è già riunito e ha cercato di portarsi avanti sul lavoro che invece il governo sta iniziando a fare proprio da oggi con il comitato guidato da Colao? Come ripartiremo? Andremo per settori, per fasce di età? Voi che cosa avete immaginato, Saracco? Allora, intanto noi siamo una università italiana innanzitutto, dei miei studenti ce ne sono oltre il 60% vengono fuori dalla regione Piemonte. L'iniziativa è stata promossa da noi per lo Stato innanzitutto, e ovviamente ha una base nel comitato di valutatori di molte aziende di questo territorio, ma non esclusivamente di questo territorio. E siamo partiti 10 giorni fa a seguito di una circostanza molto chiara. Noi ci siamo prestati in questa fase di corsa alla produzione nazionale di mascherine a mettere a disposizione i nostri laboratori per le certificazioni dei tessuti, e da lì abbiamo capito una cosa fondamentale: è difficilissimo individuare delle filiere efficaci secondo le norme, e contemporaneamente c'è un bisogno enorme di mascherine, perché quando poi arriveranno i kit disponibili per tutti, perché bisogna far partire le grandi imprese come le piccole imprese, che sono il tessuto portante della nostra economia, magari useremo le app e queste cose, ma subito, se uno vuole partire, deve convivere col rischio di trasmissione del virus e annientarlo con dei mezzi che siano semplici, economicamente compatibili anche con le piccole imprese. Certo, quindi mascherine, gel, disinfettante. Assolutamente, sanificazione, protocolli, distanziamento, ma poi queste cose declinate nei diversi contesti hanno dei risultati diversi e poi possono essere combinate però, con degli effetti. Certo, Saracco, mi scusi, lei sta dicendo però che su questa questione delle mascherine, così come della produzione di litri, ettolitri, quintali di gel disinfettante di cui avremo bisogno a palate proprio, c'è già un punto. Al momento, data la vostra valutazione, stiamo alla regione Piemonte, però il discorso si può allargare al resto d'Italia. Noi abbiamo un approvvigionamento sufficiente, intanto, per esempio, di questi due materiali, cioè dispositivi di protezione. A questo punto siamo a metà di aprile, se ne parla da oltre un mese di produrli a livello nazionale, e anche gel disinfettante. Ne avremo a disposizione per ogni luogo di lavoro, per ogni ascensore, per ogni panetteria, per ogni azienda? Neanche lontanamente, cioè questo è il problema. Il problema è che localmente abbiamo individuato su una trentina di ditte che abbiamo analizzato solamente una filiera che è in grado di produrre delle mascherine chirurgiche a norma. Abbiamo individuato dei percorsi, ma le do l'idea: questa filiera locale riesce a produrre in un mese 10-15 milioni di mascherine per il Piemonte, e il Piemonte da solo avrebbe bisogno di un'ottantina di milioni di mascherine per i lavoratori. Noi abbiamo reagito a una crisi negli ospedali e nella sanità. Quella è una piccola parte dei lavoratori. Adesso, se si vuole riaprire, non si può più riaprire come abbiamo fatto in emergenza. Bisogna dotare ogni lavoratore di 3-4 mascherine al giorno, perché c'è anche da considerare il trasporto da e verso il luogo di lavoro. Certo, vanno cambiate anche queste mascherine. Il primo punto della fase 2, siamo ancora fermi a avere un'assicurazione di un approvvigionamento necessario, sufficiente, di mascherine e gel disinfettanti da potersi portare. Il gel disinfettante lo possiamo autoprodurre, si può fare assolutamente. Le mascherine sono una cosa più complessa. Penso che stiamo anche ragionando con l'Istituto Superiore di Sanità di varare una norma specifica per fare delle mascherine che proteggano i lavoratori, pur non arrivando a livello chirurgico, ma che si riescano a produrre con i materiali locali. Dopodiché si stanno riaprendo le fabbriche in Cina, in altri paesi, e di lì può arrivare, ma bisogna oggi ordinarle per averle fra 15 giorni se si riparte in grande quantità industriale. Certo, e questo è un punto chiarissimo, ahimè, che però ancora è tutto da costruire. Un'altra cosa, rapidamente, perché il tempo a disposizione non è moltissimo, ma per quanto riguarda la questione dei mezzi di trasporto, che tipo di soluzione avete immaginato? So che c'è l'indicazione, per esempio, di utilizzare mezzi individuali, biciclette, motorini, scooter elettrici, perché chiaramente ci arrivo anch'io. Esatto, il rischio è minore. Però che cos'altro per venire incontro alle esigenze di chi non ha biciclette, non abita vicino al luogo di lavoro, non ha il motorino o non ha la bisogna macchina? Bisogna sanitizzare i mezzi ogni sera, fine, dotare i passeggeri di mascherine che devono diventare obbligatorie, dotarli anche di mezzi di sanificazione delle loro mani, perché noi dobbiamo impedire due vie principali, che sono quella del respiro, in cui mettendoti la mascherina tu proteggi gli altri, e quella del contatto, e sui mezzi pubblici sapete quante sono le occasioni di contatto, per cui bisogna che le persone si puliscano prima di entrare le due cose vengano fatte insieme, se no è facilissimo quando tocchi con le mani la mascherina che ti scappi un dito in bocca piuttosto che nel naso, piuttosto che in un occhio, e bisogna combinare due effetti. A quel livello può anche, diciamo così, diventare un qualcosa di superabile il limite della distanza, che comunque se tu prendi una distanza tra sedia e sedia, riempi con 10-15 persone un pullman da 50, diventa un qualcosa di veramente poco praticabile. Quindi bisogna intensificare, secondo noi, con altri presidi rispetto al distanziamento in quel contesto. E magari aumentare anche l'offerta attraverso, che ne so, aziende private ingaggiate dalle aziende stesse, aziende di trasporto, parlo, per cui autobus, pulmini in più. Cose sì. Di questo genere. Sì. Senta, sarà con un'ultimissima cosa davvero, il plexiglass. Abbiamo visto apparire in farmacie, ma anche in altri negozi, nei supermercati, barriere a volte anche improvvisate con film, mm-hmm. pellicole, eccetera, eccetera. Questo sì. Anche diventerà un alleato strategico o siamo di fronte, come dire, a un qualche cosa di illusorio? È una roba che serve, perché uno dei mezzi di modalità di contagio è che quando produci queste droplets parlando o starnutendo o tossendo, la barriera le blocca, cioè tu non vai dall'altra parte fisicamente, quindi questa è una cosa positiva che soprattutto nelle casse dei supermercati deve diventare un po' una regola. Adesso si pratica il distanziamento, cioè ti fanno stare lontano, ti fanno procedere per pagare in lontananza, ma una barriera di plexiglass risolve parecchio. Sono banalità questa, sì. Lei parlava prima di grandi scienziati, di fatto queste cose sono cose da ingegnere, molto concrete, da organizzazione di bisogna conoscere quello che capita all'interno di un'impresa. Senta, non esiste assolutamente una mentalità politica, certo. Per affrontare questa fase serve una mentalità anche pragmatica, organizzative, in grado. Tanto, quali sono i problemi da risolvere? Lo stiamo capendo quasi tutti a questo punto, insomma, per cui servono delle soluzioni. La luce proprio di questo, l'ultima cosa che le chiedo, Saracco. La data del 4 maggio per una ripartenza in questa fase 2, lei la vede, come dire, possibile, o visto le carenze che poco fa ci ha illustrato, diciamo, ci vuole ancora tempo, oppure crede che in questo lasso di tempo riusciremo a colmare le distanze? Se si parte subito con le mosse giuste si potrà partire, non solo poche aziende che si sono già dotate di strumenti di protezione individuale o collettiva, eccetera, ma soprattutto di una cosa: quando anche lei trovasse gli strumenti, deve insegnare ai suoi dipendenti ad usarli in modo chiaro. La formazione, la informazione nella prevenzione di rischi, bisogna trattare in questo modo il rischio di una trasmissione del virus che puoi avere all'interno del tuo luogo di lavoro, sì. Necessita anche di una parte di formazione. Assolutamente. Non si accetta più in emergenza di partire però a prescindere. Io le faccio un esempio: qui da noi, nel momento in cui hanno cominciato a distribuire le mascherine all'ingresso, a quel punto le mascherine sono apparse sulle facce di tutti, perché sì. La formazione è chiaramente importante, però conoscere le cose è altrettanto importante, però chiaramente la fornitura, no? Cioè la facilità di avere anche a disposizione, sì, gli oggetti. Bisogna, certo, prima averle, dopodiché però bisogna anche indossarle in modo corretto, ricordarsi di cambiarle, ricordarsi di quando lavarsi le mani, in che occasione, prima quando tu lasci la postazione. Se tu passi un mazzo di chiavi perché l'auto è a uso promiscuo, quel mazzo deve essere sterilizzato, se no è come se stringessi la mano di una persona. Sono tante piccole cose che abbiamo esplorato in diversi contesti molto concreti, ed è un corpus di norme molto importante che metteremo a disposizione del governo, del nostro paese, oltre che della regione Piemonte, che a quanto mi dice il governatore è intenzionato ad applicarle appena si aprirà. Grazie Saracco, grazie per essere stato con noi. Direttore del Politecnico di Torino, siamo invece alla pausa, torniamo tra poco, allarghiamo lo sguardo con la lettura dei giornali internazionali insieme a Giulia Crivelli.